ed è così che vive questo amore, nascosto per paura di morire, sapendo che la gioia fa rumore, che amando nel silenzio puoi star male. Raccolgo a gocce la tua carezza, consumo a morsi la tua stanchezza, per incontrarti percorro a piedi ogni distanza, e fingerei di non vedere niente se un dubbio occupasse la tua mente. Aspetterei lottando col dolore che il tempo risanasse il nostro male. Raccolgo a gocce il tuo piacere e faccio perle del tuo calore, bevendo il gusto della tua pelle, torno a morire. Appena quando noi